Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. La crisi che stiamo attraversando può essere un momento di crescita, di ricostruzione del tessuto sociale, ne è convinto Don Andrea Gallo, che a 84 anni, con il nuovo libro La Buona Novella, vuole combattere i profeti di sventura. Tutte le agenzie educative, la scuola, la chiesa, gli educatori, gli insegnanti, i genitori, i mass media, riusciremo tutti insieme a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro. Ecco perché io, mio piccolo messaggio di speranza. Chi quindi, sono, Don Andrea, i profeti di sventura oggi? I profeti di sventura sono ovunque già. Papa Giovanni è bello quando dice: non ascoltate i profeti di sventura. Io mi ricordo, ho raccolto una volta qui alla stazione ferroviaria di Principe, morì un ragazzo che conoscevo, ma non aveva nessuno al mondo, e morì di overdose, e la polizia mi chiamò e aveva in tasca, Claudio, una brevissima poesia. L'avevo già sentita recitare. Mi hanno detto che da una pianta secca può nascere un fiore, io ci credo, dice. Mi hanno detto che da una finestra socchiusa può passare un raggio di sole, io ci credo. Mi hanno detto la mia mamma, che lui non aveva mai conosciuto, mi ha voluto bene, io ci credo. Mi hanno detto che il mondo sta morendo per mancanza d'amore, e io non ci credo, diceva. Ecco, io questa speranza ce l'ho dentro, nel profondo. Don Andrea, lei nel libro scrive: io trovo il cristianesimo negli altri, nei barboni, nelle prostitute, negli atei. Chi mi dà una buona notizia è un evangelista. Gesù dice, il figlio dell'uomo dice agli apostoli, non ha dove posare il capo. E dov'è Gesù? Ecco, Gesù è negli ultimi, nei poveri, non può essere altrove. Se la gente si allontana dalla Chiesa, non sarà perché noi cristiani ci allontaniamo dal Vangelo? Sì, questo è fondamentale, perché vogliono sentire il messaggio di Gesù. Quando un bambino si lancia, perché sta uno che continua a gridare aiuto, aiuto, non va lì e non gli chiede tante cose, chi è, chi non è, se è disposto poi a... No, salva, la ciambella immediatamente. Chiunque è salvatore, è salvatore. Quindi buone notizie. Siamo consapevoli della nostra fragilità, della nostra miseria. Buona notizia, Evangelio. Non che tu sei divorziato, no. Tu rapporti prematrimoniali. Tu giovane addirittura, questo autoretismo, cioè, questo. Avete un reticolato di proibizione che proprio Gesù non ha mai detto una cosa del genere. Ecco, direi che il Vangelo è proprio pregnante, proprio attento. Buona notizia e basta, come diceva il mio amico De André, no? Che idea si è fatto di tutti questi scandali, di questo Vatilix? Questa è la conduzione dell'autoritarismo, perché lì c'è un palazzo piramidale e lei lo sa che in qualunque palazzo le congiure sono... E allora il Papa è stato severissimo, molto probabilmente sente questa situazione, quando ha consegnato le berrette cardinalizie, guardandoli bene, cioè, guardate voi siete servi. Che cos'è questi affarismi, questo carrierismo? Lui dice, noi il vostro compito è, attenti, presentare Gesù e quindi imitare Gesù e seguirlo. Soprattutto poi la Chiesa, con tutti questi scandali, con tutti questi polveroni, la Chiesa deve essere nei secoli sempre reformanda. Ora c'è Don Willy Volonté, a domenica prossima. La bellezza che accade così improvvisa e così attesa, con queste parole titolava un quotidiano di lingua italiana della Svizzera, proprio nella terra in cui Lucio Dalla ha terminato la sua esistenza terrena, per aprirla definitivamente dentro un orizzonte infinito. Ho riascoltato una sua lunga intervista su SA 2000 ed è apparsa tutta la sua stoffa umana, profonda, autentica, sorgiva, dove l'esistenza descritta era religiosa perché umana, perché lo portava ad essere compagno del vivere degli altri. Essere dentro la vita degli altri, la consolazione di avere qualcosa di sé dentro gli altri, diceva in quell'intervista. Questo permette di non fare più la guerra, questo vince definitivamente l'egocentrismo, non più contro ma dentro gli altri, perché la nostra umanità è contraddittoria, fragile, ma affascinante, e questo ha permesso a Lucio Dalla di non essere mai solo. Ma dove sta di casa la sorgente di questo amore intelligente, sorgente forse nascosta ma certa? Ecco la risposta di Lucio Dalla. Sotto ogni forma d'arte c'è Dio, e l'arte stessa è un dono divino che unisce la gente e la fa vibrare. Dio non lascia mai indifferenti. La fede cristiana è il mio unico punto fermo, l'unica certezza che ho. E ancora, Gesù capiva la gente, i suoi amici erano pescatori, prostitute, persone semplici e povere. Non siamo fatti forse tutti di sacro e profano? Non capita di guardare il cielo e avere i piedi nel fango? Dinamite pura. Allora la vita non è fatta di coincidenze indecifrabili o assurde. Dio, come ha detto Lucio Dalla, è sempre stato davanti.